Anquo Alessandro Mina e leggerà i giornali come uno che legge i giornali. E che tanchi schei? 24 mattino. Capite? Siamo qui nella rassegna stampa di 24 mattino con i giornali davanti, pronti a leggerli. Siamo iper, super pronti, caro Peter Biscapè, e andiamo allora. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a mercoledì 7 giugno con le aperture dei quotidiani. Vediamo, il Sole 24 Ore apre sulle tensioni nel Golfo, i mercati, è corsa all'oro, il petrolio resta freddo. Questo è il titolo di prima pagina. La situazione politica italiana è l'apertura per il Corriere della Sera. Tensioni sul patto elettorale. Mentre Repubblica, elezioni anticipate, Napolitano attacca, fa male al paese. Per il Fatto Quotidiano anche Napolitano attacca, Renzi e Parlamento. Grillo ora sbeffeggia la legge elettorale. Poi ovviamente c'è il terrorismo internazionale. Ministra della Difesa Pinotti, intervistata dalla Stampa, il titolo di prima pagina, l'esercito per i grandi eventi, parla Pinotti dopo Torino. E dunque il Messaggero, mio figlio jihadista italiano, la madre bolognese del killer del London Bridge, capisco gli imam se non faranno i funerali. Il kamikaze italiano è il titolo del giorno. La Verità, esportiamo terroristi islamici. Libero, il bastardo italiano. Il Giornale invece, nell'estate del terrore, poliziotti in ferie coatte. Poi devo dire che Avvenire mette in prima pagina questa foto che trovate in prima pagina ovunque. È la foto dopo che c'è stato un tentativo di attentato sventato alla cattedrale di Notre Dame a Parigi. Di tutti i fedeli, in questo caso all'interno della cattedrale di Notre Dame, con le mani alzate. L'abbiamo vista già a Londra. È un gesto per collaborare con la polizia, non è un gesto di resa. E infatti Avvenire mette questa foto, ma non è una resa, di tutte le persone con le mani alzate. È una foto che c'è ovunque, sui giornali. È anche la foto in prima pagina del Manifesto, il culto del terrore, e c'è la foto di tutte le persone all'interno della cattedrale di Notre Dame con le mani alzate, che forse sono immagini che fanno stappare qualche bottiglia di analcolico a Raqqa, dove ci sono quelli dell'ISIS. Però su questo ci si può interrogare, anche no. Di certo ci si interroga sulle falle dell'intelligence dopo che si è scoperto che uno degli attentatori era stato denunciato a Londra, faceva parte di un video in cui si inneggiava all'ISIS con tanto di srotolamento di bandiera. In questo caso l'ultima falla dell'intelligence riguarda anche l'Italia, nel senso che uno dei tre attentatori di Londra, Youssef Zagba, è nato a Fez in Marocco, padre marocchino, mamma italiana. E allora ecco che tutti vanno a cercare di ricostruire i suoi legami con l'Italia. Fiorenza Sarzanini, titolo di pagina 2, l'Italia segnalò il killer a Londra. Certo, questo è un titolo, come tanti giornali titolano così, che assolve molto l'Italia. Uno potrebbe anche dire, invece che l'Italia segnalò il killer a Londra, l'Italia ha lasciato andare a Londra il killer. Perché è successo? È successo che Youssef Zagba è stato fermato all'aeroporto di Bologna senza soldi, con un biglietto di sola andata per la Turchia, e alla domanda, guardate, non è barzelletta, alla domanda, ma lei cosa va a fare in Turchia? Il terrorista, ha risposto, al che l'agente di polizia ha detto, scusi, come? Il turista, volevo dire il turista. E però è stato segnalato per questa, come dire, battuta che non era una battuta evidentemente, visto che poi il suo destino è stato proprio quello di fare il terrorista, è stato segnalato e c'è un processo ancora in corso, un processo che a questo punto non si terrà più, tanto che La Verità intervista a pagina 2 l'avvocato d'ufficio dell'attentatore, si chiama Silvia Moise. Giacomo Amadori la intervista. Youssef Zagba non è mai stato prosciolto, dichiara il procuratore di Bologna, Giuseppe Amato. Era ancora indagato per terrorismo internazionale, è stato sottoposto a monitoraggi e controlli nei pochissimi giorni, una decina in tutto, in cui è ritornato in Italia dalla Gran Bretagna dove viveva. Ecco qui Silvia Moisè, difensore. Io l'ho assistito per un dissequestro. Se lo avessi fatto scarcerare per un cavillo mi sentirei peggio, quello sì. Però lui era a piede libero. È venuto nel mio studio, abbiamo parlato, gli ho fatto riavere delle cose che secondo me avrebbe riavuto comunque. E spero comunque che la Digos in quei 20 giorni abbia esaminato il suo telefonino, abbia esaminato gli strumenti che gli hanno requisito e che non li abbiano tenuti lì per bellezza. Che idea si è fatta su quel ragazzo? Ricordo di lui di una persona riservata, educata, composta. Ci incontrammo un paio di volte per il riesame, poi non l'ho più rivisto. A me ha detto di quell'episodio, quando è stato fermato a Bologna, e ha detto vorrei fare il terrorista, questo almeno dicono alla polizia. Lui in realtà ha dichiarato a me di aver detto voglio fare il turista, e io gli ho sempre creduto, anche perché l'altra versione mi pareva surreale. Se uno è un vero terrorista non lo dichiara, altrimenti è un mitomane, anche se oggi, come vede, mi devo ricredere. Ho sempre creduto, dice l'avvocato, insomma, che fosse un abbaglio della polizia. In tutto questo ovviamente i giornalisti sono andati a cercare di strappare qualche parola alla mamma. La mamma che ha detto qualche dichiarazione solo a un giornalista dell'Espresso, Brahim Maharad, e ha detto «Quando i figli sbagliano, i genitori si danno sempre qualche colpa, ma io ce l'ho messa tutta e penso che lui sia stato logorato all'interno. Abbiamo sempre controllato le amicizie, verificato che non si affidasse a persone sbagliate, ma aveva internet ed è da lì che arriva tutto». Ecco, questa, signori, è la nuova moda. Adesso internet è il demone. Certamente c'è qualche problema di propaganda da togliere, eccetera, ma internet sarebbe il demone, la causa. Prima l'hanno cercata nella povertà, poi nell'emarginazione, adesso in internet, nell'esclusione, per cui uno, tutti gli esclusi d'Italia infatti si mettono dei giubbotti esplosivi e vanno a sgozzare le persone per casa, per strada. Vabbè, così mio figlio ha scelto l'odio, titolo dell'articolo di pagina 3 del Corriere della Sera. Certo, tutti vanno a cercare di capire come mai questa vicenda, che impatta molto con l'Italia. In tutto questo c'è stato un attacco a Notre Dame, in Francia. L'aggressore ha colpito con un martello, è stato neutralizzato da un poliziotto, ha gridato «è per la Siria», erano le 16:20 di ieri. Ha salito a colpi di martello tre agenti di polizia, uno è stato leggermente ferito, un altro è riuscito a sparare, colpendo al torace l'attentatore che si è proclamato un soldato dello Stato Islamico ed è stato portato in ospedale. Si chiama Farid Iken, franco-algerino, classe 1977, non conosciuto finora dai servizi di sicurezza. E ci sono queste immagini, le foto anche qui di tutte le persone con le mani alzate, in segno di collaborazione con la polizia, però evidentemente appaiono anche immagini un po' di resa dell'Occidente, anche se non lo sono, fa bene a scrivere Avvenire in prima pagina, non sono immagini di resa, però sapete appunto che con la propaganda vengono utilizzate come si crede. Vabbè, lasciamo la questione del terrorismo islamico, tutte queste notizie che mettono anche un pochino di ansia, inutile negarlo, e veniamo in Italia, dove ci sono due cose che mi hanno colpito. Intanto sarebbero entrambi da mani sul volante. La prima è questa: il sorteggione. Ragazzi, ma vi ricordate le promesse? Porteremo le casette ai terremotati, noi un po' ce ne siamo occupati, daremo tutte le soluzioni abitative entro l'inverno, ma l'inverno scorso, l'inverno che è passato, siamo già quasi a estate. Giustamente oggi il Manifesto dedica a pagina 5 un articolo sull'ultima riffa, la riffa, il sorteggione delle case. Sono arrivate 124 abitazioni di emergenza nelle zone terremotate per i cittadini di Arquata che si trovano a Pescara in questo momento. E come hanno fatto? Il sorteggio. il sorteggio, con tanto di notaio, che intanto racconta il manifesto, è arrivato pure un'ora in ritardo, quindi creando una tensione tra i cittadini, tensione ad arcuata per la lotteria che assegna le prime 26 casette. Dopo la lotteria che c'è stata da Matrice, non si è riusciti a trovare un criterio migliore di che far la lotteria, anche perché il criterio migliore sarebbe, sapete quale? Quello per cui su 3.497 soluzioni abitative d'emergenza richieste, tutte dovrebbero essere già arrivate da mesi. Sapete quante ne sono arrivate su 3.497 richieste? 124. Avevano detto che arrivavano tutte entro lo scorso inverno. 124 ne sono arrivate, siamo a giugno, entro forse l'inverno dell'anno prossimo. 124 su 3.497. Quando ne arrivano poche, cosa fanno? Le riffe, le lotterie. Vabbè, ma l'articolo che mi fa pinzare della giornata, da mani sul volante se siete alla guida, è questa: è una sentenza, racconta Il Giorno, che riguarda un dentista che è anche alcolista, che fa una rima baciata non molto bella. Un dentista che ha rovinato la bocca di un paziente facendo delle operazioni sbagliate, lasciando anche un pezzo di ferro dentro, probabilmente in uno strumento che si è rotto, quindi è intervenuto con negligenza, imprudenza, imperizia, è stato denunciato da questo paziente, è stato assolto dal tribunale di Pavia perché era alcolista, era depresso e dunque era incapace di intendere e volere mentre operava sul paziente. Impunito e contento, danni al paziente non è reato, dentista salvato dall'alcol, rovina una bocca, succede a Pavia, ma era depresso e dunque assolto. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, due spalle rubate all'agricoltura. E Ale, allora dobbiamo parlare di attualità politica con il dibattito sulla legge elettorale, ma pesa, almeno politicamente raccontano i giornali, la presa di posizione dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Oggi sui giornali tutti riferiscono della sua presa di posizione contro le elezioni anticipate. Come racconta Emilia Patta a pagina 9 del Sole 24 Ore, cosa ha detto l'ex Presidente della Repubblica? In tutti i paesi democratici europei si vota la scadenza naturale delle legislature. Fare diversamente significa dare il massimo contributo negativo al consolidamento della credibilità politica istituzionale del paese. Ed è semplicemente abnorme che invece il gioco e il patto extracostituzionale sulla data del voto sia quasi diventato un corollario dell'accordo tra partiti sulla nuova legge elettorale. Eccola qui la bordata contro una grande intesa di quattro leader, sempre parole di Napolitano, che agiscono solo calcolando le proprie convenienze. Sono certamente parole molto pesanti. Il no di Napolitano, anche pagina 10 del Corriere della Sera, patto per la convenienza di quattro leader. C'è da dire che non solo Napolitano manifesta dei dubbi, anche Beppe Grillo da un paio di giorni sta cominciando a dire che questa legge elettorale ha qualcosa che non va. Secondo i giornali, addirittura lunedì Beppe Grillo era furente. Questa è il retroscena di Alessandro Trocino a pagina 11 del Corriere della Sera. Lunedì sera era furente, lo raccontano, tentato dal premere il bottone della guerra termonucleare per far saltare il mega porcellum da definizione della passionaria del movimento Paola Taverna. È lei, Paola Taverna, che pare abbia convinto, insieme ad altri 5 Stelle, a dire a Beppe Grillo bisogna far saltare questo patto. Poi cosa è successo? Grillo è tornato sui suoi passi, ha avuto un colloquio con Davide Casaleggio e le parole di ieri a Taranto, quando ha detto stiamo facendo una legge elettorale che non capisce più nessuno, lo abbiamo sentito anche nel giornale radio, testimoniamo il fatto che Beppe Grillo stava per cedere in qualche modo all'ala dura del Movimento 5 Stelle. Sappiate che Paola Taverna due giorni fa aveva detto: io non mi sarei neanche seduta a parlare con questi qui sulla legge elettorale. Poi invece l'accordo attenuto almeno fino al prossimo fino alla prossima decisione da parte di Beppe Grillo. Anche Ilario Lombardo racconta a pagina 10 della Stampa che queste accuse di un inciucione con Renzi e Berlusconi, insieme ai malumori della base degli attivisti, a una fronda interna aveva spinto Beppe Grillo a far saltare l'accordo sulla legge elettorale. Lunedì sera, furibondo, aveva dato ordine di scrivere un post per mandare all'aria tutto il lavoro dell'ultima settimana. Poi però la telefonata con Casaleggio ha fatto rientrare al momento queste tensioni. Mentre Renzi si trova, dopo Veltroni, dopo Prodi, dopo Napolitano, oggi Goffredo De Marchis su Repubblica racconta che oggi anche Rutelli parlerà questa sera in TV, non lo so, si sa già quello che dirà stasera in TV, evidentemente. Quindi i padri nobili della sinistra mettono un po' sotto assedio Renzi, tutti a dire guarda che è sbagliata questa smania di andare al voto. Il retroscena che fotografa la reazione di Renzi a tutto questo è: quella sinistra è sparita, io cambio gioco. Renzi non si nasconde il pericolo, racconta Goffredo De Marchis su Repubblica, tanto più che se qualcuno dei big dovesse avvicinarsi alla lista di Pisapia rispolverando lo spirito dell'Ulivo. Ma un renziano che lo ha sentito nelle ultime ore dice che il segretario aveva messo nel conto gli attacchi. E dice, con la scissione accettandola, questa classe dirigente ha fatto una scelta e si è assunta una responsabilità. I big hanno un vecchio modo di ragionare e sono legati a un'impostazione del passato, quella della coalizione a sinistra, di un accordo tra le varie anime di quel mondo. Noi abbiamo fatto una scommessa nuova. Solo le elezioni diranno se abbiamo sbagliato o abbiamo fatto la cosa giusta. Insomma, un Renzi che tira dritto. In tutto questo, raccontano i giornali, lo racconta Marzio Breda, sul come dire, esperto di quello che succede al Quirinale, che Mattarella sta ipotizzando proprio il 24 settembre come voto. L'ipotesi del voto il 24 settembre, il Quirinale si prepara allo scenario. Mattarella preferirebbe scegliendo di arrivare a scadenza naturale, quindi al 2018, ma ritiene che il sistema di voto abbia la priorità. Racconta Marzio Breda in questo retroscena: a questo punto Mattarella si sta preparando al voto anticipato e non perché sia ormai definitivamente rassegnato all'ipotesi. Infatti, se e quando sarà investito del compito di decidere le sorti della legislatura, manderà il paese alle urne sulla base di una valutazione realistica del quadro politico. Ma il 24 settembre, se proprio c'è accelerazione, è la data da lui preferita. Questo almeno racconta il Corriere della Sera. Due interviste intanto, i leader scendono in campo. Ecco, utilizzo questa espressione soprattutto per Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi rilascia un'intervista ad Antonella Coppari, sono due pagine del Giorno. Berlusconi sbarra la strada a Renzi, il miglior premier è Mario Draghi. Non è una novità questa di Berlusconi, ma lo rilancia. Sarebbe un ottimo premier, Draghi. Immagino che Renzi voglia tornare a Palazzo Chigi vincendo le elezioni, dice Berlusconi. Noi ovviamente faremo tutto il possibile per evitarlo perché vogliamo vincerle e portare a Palazzo Chigi un nostro candidato. E poi parla del programma, l'imposta piatta al 23 o al 25%, quindi la flat tax per tutti, il terrorismo, l'immigrazione, ma insiste su Mario Draghi. A proposito di tasse, l'altra intervista che vi segnalo è quella a Matteo Salvini. Viene intervistato da Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore, dunque è un'intervista prettamente economica sulle ricette economiche che propone la Lega. Subito la flat tax e stop all'aumento dell'IVA. Ecco, sull'IVA Salvini è molto chiaro: scherziamo, aumentare l'IVA in questo momento sarebbe dare un colpo mortale a quel poco di consumi che ci sono. La nostra ricetta per la crescita si chiama flat tax al 15%. Oggi la crescita c'è solo se ripartono i consumi e questi riprendono solo se gli italiani hanno più soldi in tasca da spendere. Abbiamo anche un piano per il saldo immediato e definitivo dei debiti della pubblica amministrazione verso il settore privato con l'utilizzo di titoli di Stato di piccolo taglio. Bene poi gli investimenti pubblici, ma che non vanno confusi con soldi a pioggia a favore dei soliti noti. Poi Salvini risponde anche a una domanda, la proposta di Confindustria di azzerare il cuneo fiscale per favorire l'assunzione dei giovani, e qui Salvini è durissimo, sentite la risposta, guardi, il cuneo fiscale. Qualcuno mi ha chiesto se fosse una sorta di agevolazione per coloro che abitano a Cuneo. Ma come parla questa gente? Io mi aspetterei più coraggio dall'industria italiana. Non ho sentito da Boccia, presidente di Confindustria, una sola parola di sostegno alla flat tax per le imprese al 15%. Nostra proposta. Lo ha fatto Trump e il giorno dopo i mercati sono volati. Ridurre di quasi 10 punti la tassazione sulle società in Italia costa 14 miliardi. Già, ma come li coprireste? L'ideale sarebbe lasciare che questi soldi rientrino totalmente nel circuito economico. Ma se volessimo proprio cercare coperture, 7 miliardi si possono trovare cancellando il nostro contributo netto all'Unione Europea. E 7 li recuperiamo cancellando il finanziamento al Jobs Act, che a quel punto non servirebbe più. Poi ricordo la storica battaglia della Lega per il federalismo fiscale. Secondo dati Confcommercio, costringere tutte le regioni italiane alla spesa efficiente di Veneto e Lombardia porterebbe 20 miliardi l'anno di risparmi. Insomma, un Salvini economico sul Sole 24 Ore. Va bene, c'è da parlare di altre cose, di Totorina, delle polemiche, di qualche notizia di cronaca. Subito dopo il traffico! Ma chi se ne frega? L'urlo di guerra prima di entrare a scuola. Ancora pochi giorni, ancora pochi giorni. In Lombardia finiscono giovedì le scuole, non so se in tutta Italia è così. Ancora pochi giorni, l'urlo di guerra. Ma chi se ne frega, non male, non male. Dai, tenete duro, due giorni ancora e domani la scuola è finita. Allora, la vicenda Totorina, qui bisogna fare anche un po' chiarezza, ribadire, insomma, la Cassazione non è che ha detto Rina torni a casa, ciao. Rina, devono essere motivate meglio le decisioni del tribunale per cui è stato negato il differimento della pena a Totorina, e quindi è stato un rinvio al tribunale per capire, dateci delle prove più concrete. Questo però, l'idea che Totorina possa avere il differimento della pena con questa motivazione a diritto a una morte dignitosa ha suscitato un coro di proteste, come racconta Avvenire a pagina 13. Rina, casa per morire, coro di no, pochi distingue. I familiari delle vittime di mafia dicono è un brutto segnale. C'è da dire che Totorina, peraltro, non è in carcere. Ecco, questa è un'altra cosa da dire. Da 2 anni ormai non fa rientro in carcere ed è curato in ospedale a Bologna, quindi cioè a Parma, scusate, la clinica universitaria di Parma, quindi non è neanche in carcere. No, questo per chiarire alcune cose in merito allo stato attuale, tanto che Repubblica con Salvo Palazzolo fa un reportage, racconta: nella stanza blindata di Rina in ospedale, non si alza da mesi ma è sempre lucido. Racconta Salvo Palazzolo, sono su Repubblica, pagina 14. Negli ultimi giorni è tornato a chiedere una radiolina, vorrebbe anche un calendario, il paziente Salvatore Rina, che da 8 mesi ormai non si alza più dal letto. Ma nella stanza cella, nascosta tra le corsie del Maggiore, la clinica universitaria di Parma, non ci può stare nulla, queste le regole. Solo le apparecchiature sanitarie. Di fronte c'è una finestra che guarda la città. Dal novembre 2015 il capo dei capi di Cosa Nostra, l'uomo delle stragi, non sta più in carcere. Si trova in questa stanza segreta dove sono ammesse solo una 20 di persone tra sanitari e agenti. Una stanza blindata, sarà grande all'incirca 5 metri per 5. Qui l'ergastolano Rina viene tenuto sotto stretto controllo medico per quella serie di patologie infinite, finite al centro dell'ultima sentenza della Cassazione. Ha diritto a una morte dignitosa, ha scritto i giudici, sollevando così un vespaio di polemiche. In attesa della prossima decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, il padrino di Corleone continua a restare nella sua stanza segreta, piccola fortezza nel tranquillo ospedale che è fra le eccellenze della sanità italiana. Raccontano che quando Rina è ricoverato lì, da quando è lì, nulla ha mai turbato la tranquillità in corsia. Non si è mai visto un solo agente penitenziario in mimetica e mitraglietta, neanche quando il capo dei capi deve essere trasferito in carcere per raggiungere la saletta delle videoconferenze. 15 minuti di strada, traffico permettendo, un'ambulanza, qualche autocivetta, nessuna sirena, nessuna paletta. Parole d'ordine del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: passare inosservati. E però è lì, nell'ospedale di Parma. E quindi non è in carcere. Repubblica intervista anche con Piero Colaprico Roberto Longu. Chi è? 54 anni, ex carabiniere, è uno dei quattro che ha arrestato fisicamente, con il nome di battaglia Omar all'epoca, Rina. Per 7 mesi ha dato la caccia a lui da maresciallo. Così io e la squadra di Ultimo giurammo di catturare la belva e ora non gli regalino la libertà. Racconta Roberto Longu, che oggi fa il security manager, intanto le fasi dell'arresto di Rina e poi dice la sua: se una persona è stata condannata a 10 anni, sconta 10 anni, se ha più ergastoli, sconta l'ergastolo, anche se si hanno 85 anni e si è malati, nelle condizioni più umane possibili, ma ergastolo deve essere. Insomma, in Italia dovrebbe esistere la certezza della pena. E così lui certifica il fatto anche lui che Totò Riina dovrebbe rimanere in carcere. Rimango su Repubblica, dove c'è una storia raccontata da Giampaolo Visetti che riguarda un capo scout gay e un parroco, un capo scout gay che si è unito civilmente con il proprio compagno, e un parroco a Staranzano in Friuli che ora scaglia le sue ire dicendo: lasci i Boy Scout, lasci i lupetti, che i bambini così vanno in confusione. Questa storia è raccontata a pagina 19 di Repubblica, le nozze del capo scout gay che dividono preti e genitori. La storia è quella di Marco Di Giust, 45 anni, capo del branco scout di Staranzano, 7.000 anime alle porte di Monfalcone. Lui si è unito al proprio compagno, ci sono le foto su Repubblica, e da quel momento il parroco dice: non ci sono più le condizioni perché continui a fare l'educatore del gruppo scout, ora tocca a lui decidere cosa fare. In concreto, non una scomunica, ma una esclusione bella e buona, a dire: non può, così da omosessuale, mandare in confusione i nostri ragazzi. Su Repubblica il dibattito, seguirà dibattito sui giornali italiani. In tutto questo, in carcere non ci si va quasi mai, si dice in Italia, no? È capitato invece a un 80enne, e già questa è una notizia. Insomma, in carcere, io l'ho letta sulla stampa, ho detto: ma come? Già in carcere a 80 anni, in genere non si va a 80 anni. Ma poi per il reato, grave, perché ne abbiamo parlato anche noi, non è che non voglio sminuire, ha costruito 5 anni fa una costruzione abusiva in una zona inedificabile. Ma come? Ma in Italia ci sono milioni di abusivi, e non sto giustificando, anzi vanno condannati tutti gli abusi edilizi. Noi abbiamo fatto varie trasmissioni, ma perché accanirsi con un 80enne la cui colpa, racconta la stampa, è di avere realizzato 5 anni fa una costruzione abusiva? Sconterà 20 giorni di carcere. Anziano di Porto Empedocle, rimarrà in una cella del penitenziario di Petrusa, dove sconterà la pena. È stato tradotto in carcere a 80 anni per abuso edilizio. C'era qualche altra questione precedente, perché mi sembra abbastanza assurdo, cioè mi sembra squilibrato rispetto al metro di giudizio che c'è in Italia. Comunque, in carcere a 80 anni per la casa abusiva nella Valle dei Templi. Leggetelo sulla stampa a pagina 16. Attenzione, Corona invece rischia il carcere. Il PM ha chiesto altri 5 anni a Mauro Corona, lui ha urlato una vergogna, è stato allontanato dall'aula. Vabbè, andremo a vedere come si pronuncerà la Corte. In tutto, la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali, è un trafiletto, George Clooney è diventato papà, sono nati Ella e Alexander. Ma chi se ne frega!